Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te, chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sei, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare per un cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so, tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà, tutto quello che un uomo sognare potrà.